casualmente a metterci in contatto con un osservatore casuale di quello che sta succedendo in Val di Susa. Ciao. Buonasera. Allora, dici, dici un po' tu. Buonasera. Quello che succede. Buon malox a tutte. Dici un po' questa quattro giorni che è iniziata già ieri. Insomma, della radio già ne abbiamo parlato. Ne avete già parlato, dico che. A che serve ripetere? No, come... abbiamo parlato di ieri, sì, non di oggi. Insomma, qua sembra che in questi giorni la Val Susa e in particolare la Val Clarea, diciamo, sia un po' il centro di tutta una serie di attività volte a ribadire, insomma, le ragioni, le ottime ragioni di chi si oppone al treno ad alta velocità. Quindi ci sono tutta una serie di iniziative che scandiscono le giornate. E da quello che sto osservando, tutta una serie anche di attività, diciamo, che si svolgono quando il sole tramonta. E in questo momento sono su un'altura qua che domina la Valle Clarea, che è attraversata dal viadotto dell'autostrada. Sotto questo viadotto, come sapete, è in corso di allestimento. È un corso di allestimento il cantiere che dovrebbe poi ospitare, insomma, far partire questo tunnel di 7 km, tunnel di servizio funzionale alla costruzione poi di quello definitivo di 57 km che partirebbe da Renaud, forse. Allora, qui l'aria si è fatta immediatamente poco respirabile e quindi sono costretto a... Niente, comunque qui è in corso una sorta di uno dei tanti tentativi di mettere pressione sulle forze dell'ordine con una serie di azioni di disturbo che vedo apposta qui dall'alto. Si stanno svolgendo un po' intorno a quasi tutto il perimetro recintato che difende questo non cantiere, in quanto il cantiere sappiamo che non è mai partito, solamente, come dire, un appoggio logistico che permette. Comunque, che sta, scusate, ma l'aria si è fatta immediatamente poco respirabile. E quindi niente, si stanno svolgendo alcune azioni di disturbo che sto guardando un po' d'alto, anche se, diciamo, molto generosamente l'aria viene, come dire, saturata dai famosi gas CS che sono ormai tristemente noti da qualche anno. E in questo momento vedo una fase di stallo, però. E la nebbia, diciamo, sai, fitta, mi impedisce di capire esattamente quello che succede, anche se c'è una sorta di azione, come dire, di alleggerimento da parte delle forze dell'ordine, e vedo alcuni nel buio che ci circonda, vedo alcune figure che si stanno ritirando dopo aver cercato di approcciare una parte del perimetro di queste recinzioni. E niente, io per adesso diciamo che non ho molto da aggiungere, perché la cosa che ti volevo chiedere è che parte della manifestazione anche di ieri come di oggi era quello anche di aiutare un po' gli agricoltori, in particolare coloro che fanno il vino sulla quale non so quanto abbiate approfondito, ma sapete che è praticamente impedito l'accesso agli agricoltori proprio in un periodo cruciale per la vendemmia, e la vocazione di questa valle è sicuramente legata, ecco, sentite, è legata alla raccolta dell'uva, alla vendemmia, cioè viene prodotto un vino ottimo, e purtroppo diciamo che questa fitta di primogeni di ogni genere ha definitivamente compromesso i raccolti e oltretutto posto tutto quanto l'impianto securitario messo intorno alla Maddalena impedisce di fatto agli agricoltori di avere accesso ai propri campi, e quindi si prevede un pessimo raccolto. Sono state fatte diverse azioni proprio per più o meno simbolicamente riuscire ad avere accesso a queste vigne dove si è constatato purtroppo che il terreno è totalmente impregnato da questi gas che, vi ripeto, stanno in questo momento proprio, sono vedo qua, purtroppo il vento non ci è amico in questo momento, ci sta praticamente, come dire, soffocando, ho delle difficoltà proprio a parlare e a vedere, mi dispiace, ma questo è qua. Forse potremmo andare a fra poco per avere una fase di stallo, o meglio, c'è cioè una sorta di, come dire, ripiegamento, proprio perché l'aria è diventata assolutamente irrespirabile anche per coloro che sono in possesso di maschere antigas che dovrebbero garantire un po' di resistenza, però veramente vi dico, tutta la parte sotto il viadotto è coperta dalla nebbia. Io adesso mi affaccio un po' di qua per capire quello che succede, anche perché c'è in corso un altro tentativo. Ecco, adesso mi avvicino e riesco a osservare meglio. È in corso un ennesimo tentativo di avvicinarsi ai gesti della recinzione. Una delle novità è che sono stati presentati dei varchi da parte delle forze dell'ordine, con dei cancelli sulla recinzione, che evidentemente permettono anche un tipo diverso di manovra, che è quello proprio l'uscita da parte delle forze dell'ordine dalla recinzione per rintuzzare, come dire, i tentativi di approccio da parte degli attivisti. Ne vedo uno davanti, poco fa c'era stata una sorta di tensione, avvicinamento da parte delle forze dell'ordine a questo cancello, che diciamo è stato in qualche modo dissuaso apparentemente da un lancio che ho potuto osservare qua dal lato. Non so se sentite gli scoppi e le esplosioni. Sì, ogni tanto si sentono. Si sentono, sì. Sì, ogni tanto sì. E niente, quindi qui è un po' un continuo. Ecco, adesso abbiamo sentito. I lanci dei lacrimogeni ad alcuni fuochi d'artificio, devo dire, soprattutto assai scenografici qui in questa valle tagliata dal cemento. Ecco, adesso c'è proprio, ecco qua, sentiamo anche degli improperi lanciati. Devo dire, lo scenario è assai affascinante nella sua bruttezza, che c'è anche una luna piena che sta illuminando praticamente a giorno. Ecco, penso che era un fuoco d'artificio notevole, al quale hanno risposto adesso con altri una buona serie di lacrimogeni che sono proprio qua, quindi io faccio qualche altro passo verso l'altura di cui prima, proprio per evitare di rimanere soffocato e così non poter continuare questa diretta. Il terreno sta sconnesso la notte, nonostante la presenza della luna, chiaramente presenta un'ulteriore difficoltà per chi cerca in qualche modo, vedo qua delle figure nell'ombra della notte che cercano di avvicinarsi con degli strumenti a queste recinzioni nel tentativo così di forzare quel fortino che protegge, come diciamo, questo non cantiere, perché evidentemente nulla viene scavato qui. Sappiamo benissimo ormai che il costo giornaliero di questa impresa securitaria è di circa 90.000 euro. Facendo un po' di calcoli, ormai possiamo dire che, come qualcuno qui in valle ha già affermato, che il costo dell'impianto di sicurezza finirà per superare il costo stesso dell'opera, il che veramente rende tutta questa situazione assai paradossale. Si è appena acceso un incendio, questo fittissimo lancio di lacrimogeni fatalmente finisce per attecchire sulla vegetazione più secca, e si accendono dei fuochi qui e lì a punteggiare proprio la notte qua in Valle Clarea. Io per adesso direi che non ho molto da aggiungere, perché vedo che la situazione sta un po' escalando, quindi forse farei, se mi permettete, una piccola pausa anche per riprendere fiato e allontanarmi un po', e magari ci risentiamo fra una decina di minuti per un nuovo aggiornamento, ok? Va benissimo, noi ti ringraziamo e ci sentiamo.